Friuli nel mondo, 199esima trasmissione dedicata agli emigrati. Ricordando Lucio Gagliardi. È di recente scomparso, ancora in giovane età, il maestro Lucio Gagliardi, amico del Friuli e profondo e sensibile conoscitore, ammiratore e divulgatore del nostro cospicuo patrimonio canoro. Maestro, più che direttore del coro Illesberg di Trieste, ha dedicato parte della sua attività artistica nelle esecuzioni che sempre hanno raggiunto un notevole livello tecnico ed interpretativo delle nostre più belle villotte. Nel caro ricordo di Lucio Gagliardi, vogliate ascoltare nell'esecuzione del coro Illesberg il Cialciumit di Giobatta Candotti. Ed ora di Franco Esker, ascoltate O tu stelle. Thank you. ancora di Franco Escher, ascoltate l'Ave Maria. Di Arturo Zardini ascoltate Stellutis Alpinis. Oh! ed infine In che sere di Enrico Fruc e Luigi Garzoni. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.